place of our commendations. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. In a desperate defense of the cathedral city, streetcars are used as roadblocks, but fail to stop the tanks which simply haul them along. So rapid is the tank advance. Queste sono cronache dannata, cronache che risalgono al 1949 e raccontano del terribile fatto di sangue che accadde per le strade di Camden, una cittadina del New Jersey, tra l'altro popolata anche di parecchi immigrati italiani, il 6 settembre del appunto 1949, quindi appena poco più di 50 anni, di 60 anni sono, scusate. È morto nella giornata di ieri in un penitenziario, ma in realtà in un ospizio per anziani, perché ormai aveva ben 88 anni, il signor Howard Unruh, che altro non fu in quella triste giornata di 60 anni fa che il responsabile della prima omicidio di massa della storia degli Stati Uniti d'America, poi quello che sarebbe diventato con il passare degli anni purtroppo un punteggiare della cronaca, una ricorrenza, persone che improvvisamente, spinti da motivazioni diverse ma spesso impalpabili o difficilmente prevedibili, prendono un'arma e cominciano a sparare. Nella fattispecie questo ex reduce della Seconda Guerra Mondiale, dove si era comportato onorevolmente, questa persona solitaria, pare traversata da grandi inquietudini religiose, quel pomeriggio uscì di casa e cominciò a sparare all'impazzata perché aveva saputo che dei vicini parlavano male di lui. Lo fece in giacca e cravatta, con una Bibbia addirittura in tasca, usando come arma una vecchia pistola da guerra tedesca, una Luger, e uccise 13 persone. Poi venne circondato, catturato, processato e condannato all'ergastolo perché riconosciuto incapace di intendere di volere, insomma in una condizione di demenza precoce, cosa che gli risparmiò la pena capitale. È stato uno dei grandi fatti di nera americana di quegli anni ormai eroici nel cuore del Novecento, ma una certezza è che invece quando siamo all'imbocco del XXI secolo la pena di morte è ancora una realtà di fatto negli Stati Uniti d'America, ma è uscito oggi, ne parlano in questo momento i telegiornali americani che gli statunitensi stanno guardando nello svegliarsi nelle loro case, è uscito un rapporto importante dal punto di vista del futuro della pena di morte in America, perché in realtà la pena di morte alla fine potrebbe essere abolita, potrebbe essere bloccata per il più volgare dei motivi, in realtà per una questione di soldi. Infatti uno studio del Death Penalty Information Center in collaborazione con l'ufficio statistico della giustizia calcola che mandare a morire una persona per iniezione letale o sulla sedia elettrica, che per fortuna non è più in uso da alcuni anni, costa decine di milioni di dollari per ciascun caso. Tanto ammontano sia le particolari condizioni di sicurezza, ma anche la possibilità che viene concesso al condannato a morte di ricorrere in appello, di chiedere la grazia. Si parla in Florida di 24 milioni di dollari per ogni esecuzione portata a termine. E bene o male, comunque nel 2009 ne sono state portate a termine 40 a tutt'oggi, 37 erano state l'anno scorso, quindi il dato è in crescita, e per il 10 di novembre in Virginia è in programma l'esecuzione di John Allen Muhammad, che forse alcuni voi ricorderanno perché i fatti che lo riguardano non risalgono molto tempo fa, ma soltanto al 2002, quando questo signore cominciò a sparare sulle autostrade della Virginia, sulle macchine che passavano passavano causò una vera e propria mania, un vero e proprio terrore collettivo, sparava sulle macchine che passavano sull'autostrada e alla fine uccise 10 persone. Ma potrebbe costare troppo caro mandare a morte lui o forse qualcuno dopo di lui, e per questo motivo questo costume, che è ancora in vigore nella maggioranza degli stati americani, potrebbe tramontare. Strong remarks coming out of the White House about one or two of the commentators on Fox News. E arriviamo al primo piano di oggi, invece parliamo di questioni sostanziali a questo punto, e riprendiamo la polemica che sta diventando sempre più complessa e forse anche sempre più interessante da un punto di vista di comprensione delle traiettorie dell'immediato futuro politico americano, tra Rupert Murdoch, a cui appartiene la voce che avete appena ascoltato, mentre diceva che sì, effettivamente alcuni commentatori alla Casa Bianca della sua rete Fox News vengono trattati in modo diverso dagli altri, ad esempio non si risponde alle loro domande, ma che tutta questa storia, volete sapere una cosa, fa bene agli ascolti di Fox News, che stanno sostanzialmente migliorando. Poi Rupert Murdoch, nel corso della assemblea annuale degli azionisti di News Corp, la sua società che si è tenuta a Manhattan ieri, è partito al contrattacco ed ha accusato l'amministrazione Barack Obama di essere anti-business, ovvero di, in un certo senso, siamo preoccupati, ha detto Murdoch, dal clima degli affari e ci chiediamo se ciò scoraggerà la nascita di nuove società e nuovi posti di lavoro. C'è la percezione pubblica, ha detto ancora Murdoch, certamente, che questo governo sia anti-business. Non dico che sia una percezione corretta, ma questa percezione sta danneggiando l'economia. In un certo senso questa linea dell'anti-business, no? Poi la parola anti è usata anche nella politica italiana e in America, essere anti-business è un po' essere contro la Costituzione, contro la natura stessa della nazione. Questa linea potrebbe diventare presto un mainstream nello scontro politico che già si intravede all'orizzonte e che punta naturalmente alla defenestrazione di Barack Obama, o perlomeno della maggioranza democratica che in questo momento governa l'America. The only argument I need was making is that they're not really a news station. If you watch, even it's not just their commentators, but a lot of their. E questa è la voce dell'uomo di Obama che risponde, riprende la polemica. David Axelrod, il suo stratega preferito, risponde a Murdoch con la consueta presa di posizione, ormai la linea ufficiale della Casa Bianca. Murdoch può dire quello che vuole, ma Fox News in questo momento non fa giornalismo, e se non fa giornalismo è cosa naturale che noi non risponderemo alle loro risposte quando i loro giornalisti ce le porranno. Vedremo le prossime puntate di questa guerra culturale. Do you think that more troops are needed to win? Well, I think that's premature. Look, the president made a decision back in March. Setting clearly what our goal was. Questo è l'uomo che si sta ammettendo, se state un po' più attenti, non magari proprio ai titoli, ma ai sommari degli articoli dei giornali americani di politica, che si occupano di politica estera, è l'uomo che in questo momento sta lavorando più sodo nella amministrazione Obama. È Joe Biden, il vicepresidente, è l'uomo che in questo momento sta in un certo senso imponendo il suo punto di vista sulle principali questioni nelle aree di crisi in cui l'America si sente coinvolta o vuole essere coinvolta, e la parola chiave è diplomazia, e su questo Joe Biden sta insistendo e sta ottenendo parecchio seguito anche dallo stesso presidente. Ieri, ricevendo la Casa Bianca, il premier iracheno Nuri al-Maliki, Biden ha chiesto al governo di Baghdad di organizzare elezioni trasparenti nel paese quando i cittadini saranno chiamati alle urne all'inizio del 2010. Biden avrebbe incoraggiato il Parlamento iracheno ad agire in modo rapido per creare una nuova legge elettorale che consenta una partecipazione politica trasparente alle elezioni naturali, quindi un atteggiamento che fa eco a quello assunto nei confronti dell'Afghanistan di Karzai. Al tempo stesso Biden inizia oggi un mini tour nell'Europa dell'Est, andrà in Polonia, Romania e Repubblica Ceca. Obiettivo della missione: rassicurare gli alleati est europei dopo dopo che Obama ha abbandonato, come ricorderete, il progetto di scudo spaziale portato avanti da Bush, quello che prevedeva l'installazione in Polonia e in Repubblica Ceca di una stazione radar e basi antimissilistiche. Biden presenterà a Varsavia e a Praga i nuovi piani di Washington sul fronte della difesa comune regionale. Alla Polonia in particolare è stata offerta l'installazione di un nuovo sistema antimissilistico per rispondere a potenziali attacchi da parte dell'Iran, ma tale cioè da non allarmare la Russia, che invece aveva protestato contro il progetto Bush. What power art thou who from below hast made me rise unwillingly and slow from beds of everlasting. Buongiorno America. Allora, abbiamo notato sui giornali americani una strana sigla apparire, ce ne siamo interessati, abbiamo cominciato a seguire la traccia, poi abbiamo capito che sarebbe stata cosa buona e giusta chiedere aiuto per indagare meglio. La sigla in questione è J Street, è una nuova lobby ebraica americana di sinistra, così si potrebbe riassumere il senso, ma è anche qualche cosa di più, ovvero è una organizzazione che in un certo senso si contrappone a quella che siamo abituati a considerare come il mainstream per quello che riguarda l'espressione dei pareri, dei punti di vista degli ebrei americani, che si chiama invece AIPAC, American Israeli Public Action Committee, potentissima, ricchissima, con un sacco di soldi al suo servizio e con tante connessioni con la Washington che conta. Ma c'è un mondo ebraico di sinistra che si sta muovendo, si sta organizzando, che manifesta sfiducia e in un certo senso scontento per come il mondo politico israeliano sta procedendo di questi tempi. E sotto questa sigla J Street si raccolgono personalità interessanti e si annuncia ora anche un appuntamento al 25 al 28 ottobre a Washington di una conferenza nazionale di questi attivisti con un titolo di grande interesse: guidare il cambiamento, assicurare la pace, in un certo senso dare una mano a fare quello che in questo momento anche la diplomazia americana sembra impotente nel realizzare, almeno a giudicare dalle risultanze delle ultime missioni, delle ultime spedizioni, ultima quella di Mitchell di qualche giorno orsono. Abbiamo in linea Maria Grazia Enardu, docente di relazioni internazionali presso l'Università di Firenze, e la salutiamo e la chiamiamo in causa su questo argomento. Buongiorno Maria Grazia. Buon pomeriggio a voi. Allora, come ci puoi presentare, come ci puoi introdurre questa nuova sigla e soprattutto il suo peso, il suo potenziale di impatto sull'opinione pubblica degli ebrei americani e non solo? Innanzitutto J Street non si pone, non si vede come una lobby, è registrata come associazione di altra natura, e già questo dà un'idea di come si vuole porre rispetto alla corazzata AIPAC, contro la quale ovviamente in concorrenza. Poi è nata nella primavera dell'anno scorso, in pratica quando la campagna elettorale di Obama è entrata nel caldo, come se i suoi soci fondatori avessero sentito che quella era una finestra di opportunità da usare fino in fondo. È cresciuta parecchio in quest'anno e mezzo, è cresciuta tanto da provocare all'interno del mondo ebraico americano e anche all'interno di Israele critiche talmente feroci che forse sono il miglior omaggio a questo nuovo ragazzino sulla scena. Ora avrà tra pochissimi giorni la sua prima conferenza nazionale, a cui sono attesi ospiti di grande rilievo, di grande peso. Ma la vera domanda è se l'ambasciatore di Israele, che è stato ripetutamente invitato e che non ha accolto ancora l'invito, se andrà, come andrà, e se non andrà, chi manderà. È qualcosa che possiamo cominciare a considerare, Maria Grazia, seriamente alternativo questa J Street a un colosso, non solo dell'influenza e della formazione di opinione, ma anche degli scenari internazionali come l'AIPAC, o dobbiamo invece inquadrarlo, come dire, in un tentativo, no, come si dice in questi casi, di un drappello di volonterosi che la pensano diversamente, ma insomma niente di paragonabile sugli effetti poi reali che su Washington per decenni ha avuto invece la sigla principale? Certo, la sigla principale innanzitutto non è soltanto ebraica, perché l'AIPAC è anche una forte componente cristiana, compresa la destra cristiana americana conservatrice, mentre J Street è essenzialmente ebraica. J Street inoltre è una forte concorrente sul terreno demografico, perché gioca e pensa al futuro della grande comunità americana, cerca di individuarne i trend e quindi di cavalcarli. Per cui la vera battaglia, che è già calda perché su alcuni temi sensibilissimi come la politica di Israele, gli insediamenti, un serio tentativo di pace, l'Iran, su questi temi sensibilissimi J Street già si misura, ma la vera concorrenza sarà nei prossimi anni, e forse da questo punto di vista J Street è molto più agile e manovrabile della corazzata AIPAC. Perché a tuo parere, almeno, insomma, l'ambasciatore di Israele si fa attendere, si fa desiderare, ed è possibile anche che non vada? C'è comunque un atteggiamento di sospetto, un atteggiamento di preoccupazione nei confronti di una possibile, no, rinascita di un attivismo di sinistra nella Washington del 2009? Certo, J Street non è per niente amata in Israele, se non da parte di pochi volenterosi, e infatti oltre a un generico messaggio di saluto del presidente israeliano Peres, avrà la presenza di alcuni esponenti laburisti israeliani, ma diciamo di seconda fila. E l'ambasciatore, come anche il suo governo, non sa esattamente che dire, perché appoggiarli troppo significa andare contro gli interessi immediati di Israele, non appoggiarli significa poter perdere un'ondata che minaccia di crescere, quindi letteralmente non sanno che fare. E per concludere, ci puoi dire due parole su questo fondatore e direttore dell'organizzazione, questo Jeremy Benami, che viene dall'entourage di Clinton, vero? Sì, infatti lui e i suoi sono lui è una persona anche piuttosto giovane, lui è stato un consigliere chiaramente junior del presidente Clinton, e assieme a un gruppettino di giovani entusiasti sta lavorando con stile Obama, cioè lui parte dall'associazionismo di base, infatti anche come fondi ne hanno ancora abbastanza pochi, ma vuole appunto sfruttare queste nuove tecniche, ripeto, è un movimento agile rispetto alla corazzata AIPAC. Grazie a Maria Grazia Enardu. Vi leggo tra l'altro una dichiarazione che ha fatto anche presentando questo appuntamento, sul quale magari torneremo, perché come dicevo in apertura del collegamento, c'è una questione essenziale, ovvero di riaprire un solco di contatto, di influenza, di capacità di positiva ingerenza e comunque di attività diplomatica, proprio quell'attività diplomatica nella quale l'amministrazione Obama mostra di credere, di fidare tanto nel suo rapportarsi con il mondo, ma con Israele. In questo momento i canali sembrano pressoché chiusi. Allora vi leggo una dichiarazione di Jeremy Ben-Ami in cui presenta in un certo senso le finalità della sua attività con J Street. Dice: il termine pro-Israele negli Stati Uniti è stato scippato da una minoranza conservatrice la cui ideologia è osteggiata dalla maggior parte degli americani ebrei e non ebrei. Con J Street lanciamo una nuova lobby alternativa di ebrei illuminati, decisi a promuovere una agenda pro Israele, pro pace e progressista.